profondità. Sei rancore, un cielo senza sole, il perdono è sacralità. Io non sono un uomo del passato e nemmeno un uomo del futuro. Io viaggio nel tempo, prigioniero del vento, sulle ali dell'eternità. Passato.